Io quando dormo faccio sogni che mettono in pace ego per ego e dintorni, cerco armonia su una base, scarabocchiandomi la vita con la grafica incerta di chi non ricorda come si fa. Ho perso il senso di sto viaggio un milione di volte, ho già rinchiuso l'equipaggio, l'ho riempito di botte, per ogni volta che si atterra qua decide la sorte, questione di vita o di morte. Intanto te sono tele, mi sento addosso pesanti catene. Per liberarmi una vita non basta, ma almeno mi passa. Dimmi, dimmi, come vuoi correggermi? Sfasciami, scomponimi, finiscimi, disegnami. Spingi, spingi, dici vuoi proteggermi? Curami, restringimi, respingimi, cancellami. Finti, finti, sono tutti identici, piccoli, patetici, veloci, con più deboli. Dimmi, dimmi, come faccio a reggerli? Immobili, burocrati, asciutti sui miei debiti. Dimmi, dimmi, spingi, spingi. Sono tutti identici.